Hadith numero 29 da Muaz bin Jabal disse: dissi, o apostolo di Allah, dimmi la linea di condotta che mi faccia entrare nel paradiso e mi tenga lontano dal fuoco. Disse: hai chiesto una cosa grandiosa, una cosa che però è facile per colui al quale Allah l'Altissimo la rende facile. Tu adori Allah e non gli associ nulla, esegui il rito d'adorazione, paghi l'imposta coranica, digiuni nel mese di Ramadan, fai il pellegrinaggio alla casa di Allah. Poi disse: ti indico le porte del bene, il digiuno, che è uno scudo, l'elargizione in beneficenza, che estingue i peccati come l'acqua spegne il fuoco, e infine il rito dell'adorazione di un uomo nel cuore della notte. Poi recitò: essi levano i fianchi dai loro giacigli fino a quando giunse a facevano. Poi disse: ti informo pure della cosa più importante della vita, della sua colonna portante e del vertice della sua gobba? Dissi: sì, o apostolo di Allah. Disse: la cosa più importante della vita è l'Islam, la sua colonna portante è il rito di adorazione, è il vertice della sua gobba, è lo sforzo perché la parola di Allah sia più alta. Poi disse: ti informo pure di quale è la condizione preliminare di tutto questo? Dissi: sì, o apostolo di Allah. Prese fra le dita la punta della sua lingua e disse: smettila, sta in guardia da questa. Dissi: o profeta di Allah, ma allora noi saremo puniti anche per quello di cui parliamo? Disse: non t'avesse mai partorito tua madre, o Muaz, che cosa fa precipitare gli uomini nel fuoco a testa in giù, o forse disse sui loro nasi, se non il raccolto delle loro lingue? L'ha riferito a Tirmisi, il quale ha detto essere questo un hadith buono e autentico. L'aya che è stata recitata è l'aya 16 e l'aya 17 della sura 32 a Sajda. Essi levano i fianchi dai loro giacigli e invocano il loro Signore con timore e speranza, e da ciò che abbiamo dato loro in sorte prelevano per far beneficenza, e nessuno sa quale gaudio è riservato loro come ricompensa per quello che facevano.